adesso mi sposto un attimo e a più dopo se coincide, ma si vediamo. Ciao, a più dopo, dai. Ciao, ciao, ciao, ciao, sentiamo. Ciao, ciao, ciao, ciao.